gli stati, abbiamo detto, privati del controllo delle loro banche nazionali, quindi secondo il principio cardine dell'Unione Europea dell'indipendenza della banca centrale, per procurarsi il fabbisogno annuo di denaro, sono costretti a rivolgersi ai mercati, quindi fondamentalmente al sistema bancario. Sono costretti ad aumentare la tassazione e ridurre contemporaneamente la spesa primaria, quella per i servizi. E questo per essere in grado di pagare gli interessi richiesti e fissati dallo stesso mercato. Lo Stato in questo modo restituisce al cittadino meno di quanto gli preleva con la tassazione. La differenza sotto forma di interessi sul debito va ai mercati. È un enorme quantitativo di denaro, di ricchezza prodotta dal lavoro che viene ridistribuita in senso opposto a quello che avveniva negli anni 60-70, cioè dal lavoro al capitale. E quindi fondamentalmente alla grande finanza internazionale che è la detentrice in larga misura dei titoli di Stato, dei titoli del debito pubblico. In seguito alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione, voluta e introdotta dal centro-sinistra, le norme dei trattati internazionali ai quali si è stata data attuazione, e in particolare le norme di diritto comunitario, prevalgono sulle norme di diritto interno, quindi contenute nelle leggi ordinarie, sia anteriori che successive. Il diritto interno, quindi contrario al diritto dell'Unione Europea, deve essere disapplicato dai giudici nazionali, altrimenti l'Unione Europea ci sanziona. Si verifica quindi un fenomeno che è incredibile, cioè che le norme emanate da organi non rappresentativi, quindi i centri di comando, no, dell'Unione Europea, prevalgono su quelle emanate dai rappresentanti dei popoli un tempo sovrani. E di fatto prevalgono anche sulle norme costituzionali che disciplinano i rapporti economici. La Commissione e la BCE, quindi la Banca Centrale Europea, come prevedono i trattati, dettano ai governi l'agenda politica delle riforme da attuare. E questo lo vediamo in modo particolare nella lettera riservata del 5 agosto 2011 che il Presidente della Banca Centrale Europea dettava al Presidente del Consiglio italiano, specificando sia gli strumenti legislativi che le priorità. Qui non si vede bene, però è il testo della lettera pubblicato dal Sole 24 Ore. Nelle parti in giallo ho evidenziato le parti fondamentali, i compiti a casa, quelli che venivano chiamati compiti a casa. E consistevano in questo: la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali, le privatizzazioni su larga scala, la riforma del sistema di contrattazione, la riforma delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, la riduzione dei costi del pubblico impiego, riducendo gli stipendi dei funzionari pubblici, e alla fine anche una bella riforma costituzionale che rendesse più stringenti le regole di bilancio. Onde assicurare la piena attuazione di queste riforme, il governo in carica viene abbattuto a colpi di spread, come tutti ricorderemo. Mario Monti, pur non avendo illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, come prevede l'articolo 59, comma secondo della Costituzione, viene nominato senatore a vita con il compito specifico di formare un governo tecnico che attui queste riforme. E queste riforme sono state puntualmente attuate, tutte. Io ho un elenco delle leggi approvate proprio per rispondere a questi compiti, no, che venivano assegnati al governo italiano. Esaminarli ci comporterebbe un impiego di tempo enorme, quindi dobbiamo in questo momento rinviare ad un altro momento, però ecco, è bene sapere che tutti questi compiti sono stati esattamente attuati. Per rendere poi più stringenti, no, come diceva la Banca Centrale, le regole di bilancio, con l'articolo 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, numero 1, viene sostituito l'originario articolo 81 della Costituzione, introducendo il principio del pareggio di bilancio nella parte seconda della nostra legge fondamentale. È un vero corpo estraneo, una norma palesemente incostituzionale nella Costituzione, che, come si è visto dalle prime sentenze applicative, comporta che la tutela di un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione degradi a pretesa eventuale, in quanto soggetta ad esigenze di bilancio fissate dal medesimo articolo 81 riformato. Vuoi dire parole più semplici, allora, concrete? Fammi un esempio. Se ci sono i soldi, sì, si può vendere, si possono rendere effettivi i diritti fondamentali violati. Per esempio la salute. Per esempio la salute. Cioè, una malattia, se ci sono i soldi o no, quindi se non prima, ci sono... i soldi vengono prima. Attenzione, perché qui le persone devono capire che i soldi non mancherebbero, ci certo. sarebbero se non fossimo, ci siamo messi in una gabbia in cui succede così. Certo. Perché la maggioranza dei cittadini, gli italiani, cioè sudditi ormai, credono davvero che i soldi manchino, e anche i deputati senatori, i più ingenui, credono davvero che i soldi manchino. Certo, all'interno di questo sistema i soldi mancano. Perché abbiamo rinunciato ad avere la sovranità monetaria. La sovranità monetaria, quindi una banca centrale controllata dal governo. Certo, perché la banca centrale, separata dal controllo dello governo, vuol dire che lo Stato perde la sovranità monetaria. Perdendo la sovranità monetaria non è più uno Stato, quindi in un certo senso può rischiare, tra virgolette, addirittura il fallimento, può finire, ma nessuno Stato di diritto può fallire, capite? È impossibile. Ecco, questi sono principi base di ogni ordinamento giuridico in cui mass media, in modo criminoso, non informano i cittadini italiani. Purtroppo anche mass media pagati dai cittadini italiani col canone obbligatorio che va a finire sulla bolletta della luce. Capite? È una cosa vergognosa questa cosa qua. Capite? Invece va detto... Vogliamo stare dentro questa situazione? Così è vero, non abbiamo soldi, quindi mi spiace, te non ti possiamo curare, te non ti possiamo dare l'istruzione, a te non potremo darti la pensione, ma non è perché è così davvero, cioè non è che è piovuto e quindi è una legge di natura e quindi la terra è bianca. Abbiamo scelto di aderire a un sistema legale internazionale che è totalmente contrario alla nostra Costituzione, per cui effettivamente se continuiamo a mantenere questo ordinamento hanno ragione i neoliberisti. Questo devono capire i cittadini. Con le leggi internazionali, cioè con i trattati internazionali approvati dal Parlamento italiano, le cose che vi dicono in televisione sono vere. Non vi dicono che però che questi trattati non era obbligatorio sottoscriverli. E quindi che chi ha sottoscritto questi trattati ha tradito il paese, ha tradito l'anima del paese. E tutta la stampa, l'informazione che non ha detto cosa è successo, ha tradito il paese. E un domani è sperabile che queste persone ne rispondano in modo chiaro.